Luca si svegliò presto e andò a scuola. Per strada, vide un gatto che giocava con una foglia. Poi, incontrò un vecchio signore che raccontava storie ai bambini. Vicino alla scuola, trovò un musicista che suonava una melodia allegra. Arrivò a scuola felice e pieno di energia per la giornata.